America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, buon primo maggio. Devo dire che se da voi è festa, la grande festa del lavoro, da noi in America, a New York, invece si lavora come se niente fosse. Borse aperte, banche aperte, uffici aperti, perché sapete che gli Stati Uniti la festa del lavoro la festeggiano quando? La festeggiano il primo lunedì di settembre. E così è una di quelle tante dicotomie tra vecchio continente, e qui includiamo anche la Gran Bretagna, perché nonostante Brexit, gli inglesi anche loro festeggiano il primo maggio, e gli Stati Uniti d'America che invece vogliono fare le cose di testa loro. Ecco, cosa succede in questo primo maggio? Intanto abbiamo archiviato ormai definitivamente i primi 100 giorni. Domenica c'è stata per esempio un'intervista con Donald Trump a Face the Nation, molto interessante, di John Dickerson, un'intervista tra l'altro che ha fatto alla Casa Bianca, l'ha fatta sabato, dove c'è stato un bilancio diretto del presidente. È ovvio che Trump dice, ma insomma non contiamo troppo su 500 giorni, però molte cose le abbiamo fatte, e comunque la cosa più importante è il progetto per la riforma fiscale. Ma archiviamo questi 100 giorni, perché ne abbiamo già parlato anche la settimana scorsa. Pensiamo invece ai prossimi 100 giorni, perché qui comincia ormai il pieno della presidenza americana, che sembra avviata su delle linee guide che ci auguriamo essere piuttosto stabili. Per esempio multilateralismo con la NATO, per esempio un rapporto forte con l'Europa, con l'Unione Europea, per esempio una linea interventista in paesi come la Siria, dove invece inizialmente Trump voleva tenersi fuori, e in Medio Oriente. Proprio in Medio Oriente, questa settimana ci sarà la visita di Abu Mazen, del leader palestinese. Sentiamo Spicer. The president's committed to peace, that's his goal. That will obviously be the topic on that. At the end of the day, the goal is peace. Ecco Spicer che dice: il presidente userà questa visita per riaffermare l'impegno degli Stati Uniti e dell'autorità nazionale palestinese a negoziare, in ultima analisi, a raggiungere un accordo che ponga fine al conflitto tra israeliani e palestinesi. Sono quanto? 50 anni che ci si prova? C'era arrivato molto vicino Bill Clinton, che era il grande maestro dell'accordo politico, e non ci è riuscito. Non so se ci riuscirà Donald Trump. Tutto è possibile. Il grande negoziatore dovrebbe essere suo genero, Jared Kushner, e vedremo se riuscirà davvero a fare qualche cosa di concreto, perché in realtà è un ragazzo molto sveglio, ma anche molto giovane e con poca esperienza in materia, al di là del fatto che poi conosce la regione, di religione ebraica. Ma una cosa è conoscere superficialmente le cose, e una cosa conoscere i dettagli, i rapporti fra le persone, i protagonisti, i punti chiave che hanno fatto da intoppo al negoziato. Eppure, proprio Abu Mazen ha lasciato intendere che potrebbe esserci un incontro trilaterale anche con Netanyahu. Ecco, io ho qui con me ai microfoni di America 24 Marco Valsania. Marco, lavoriamo insieme qui da New York, dunque cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, Marco, guardando in avanti. Intanto sul fronte medio orientale, ma secondo te Kushner, che insomma è così giovane, brillante, simpatico, ma ce la farà davvero? Oppure ci vuole Donald Trump, il grande mediatore? Ma probabilmente è difficile immaginare un Kushner che da solo, diciamo, di sua iniziativa riesca davvero a ricucire quelle che sono queste ferite storiche del Medio Oriente. Servirà, se qualcosa accadrà, un investimento forte politico dell'intera Casa Bianca, di Donald Trump in prima persona, e questo resta tutto da vedere, se avrà il capitale politico e la possibilità di farlo e di spostare gli equilibri in Medio Oriente. Ecco, vorrei fare sentire ai nostri ascoltatori una dichiarazione di Donald Trump. Questa è una dichiarazione che ha fatto a Gettysburg in ottobre, quando parla di 100 giorni, e dice soprattutto che c'è un contratto fra Trump e gli elettori per eliminare e sostituire Obamacare. Sentiamo. Obamacare is a complete disaster. So we're going to do repeal and replace. Very complicated stuff. Ecco, Obamacare, devo dire, è stato uno dei grandi imbarazzi di Donald Trump, perché il voto contrario è arrivato da una frangia estrema sicuramente, ma comunque dal Partito Repubblicano. Lui aveva promesso già questa settimana un voto, l'aveva promesso durante la conferenza stampa con Gentiloni, tra l'altro. Invece non è successo nulla. Ecco, continua un po' a buttarsi in avanti, ma ci sarà qualche cosa? Cioè, tu pensi che possa davvero eliminare Obamacare e trovare una qualche forma di sostituzione? A che punto siamo? Ma l'impegno Trump ha continuato a ribadirlo, però ha continuato, come ricordavi anche tu, a slittare. L'ultima formula che stanno discutendo è quella di un emendamento che, preparato da un deputato del New Jersey, moderato repubblicano, assieme, discusso assieme al consigliere della Casa Bianca e al gruppo degli estremisti, diciamo, della destra repubblicana, che sostanzialmente però prevede alcune ulteriori concessioni proprio a questi ultraconservatori, in termini soprattutto della copertura minore delle condizioni sanitarie mediche preesistenti. Quindi rimane da vedere se, intanto, se questo basterà a conquistare davvero gli ultraconservatori, e dall'altra se questo però non alienerà ulteriormente i moderati repubblicani oltre ai democratici, impedendogli quindi poi di fatto di andare al voto. Ecco, saltiamo al futuro, perché qui Donald Trump deve inventarsi con qualche salto mortale un dialogo coi democratici. Alcune cose non potrà passarle senza un dialogo coi democratici. Questo potrebbe irritare le frange estreme, però in quelle frange estreme ci sono 33 voti. Ecco, se lui riuscisse a trovare 33 voti fra i democratici, per lui il gioco è fatto, no? E mi viene in mente, questo lo dicevo già la settimana scorsa, che alcuni dei consiglieri più vicini a lui, Steve Mnuchin, segretario al tesoro, Gary Cohn, capo del Consiglio per la sicurezza economica, lo stesso Jared Kushner, hanno formazione democratica, simpatie democratiche. Se pensi a Kushner, il padre era un grosso sostenitore dei democratici, è andato in prigione perché Christie, repubblicano, è riuscito a incastrarlo. Ecco, secondo te questo secondo periodo di Trump sarà caratterizzato da un tentativo di dialogo bipartisan? Ci proverà, sembra proprio intenzionato a provarci, e questo, come dicevi tu, sarà essenziale per alcune delle grosse promesse che ha fatto, in particolare per esempio la riforma fiscale, dove è difficile immaginare un vero successo di questo piano di riforma, veri avanzati di questa riforma, senza in qualche modo così reach out, un'apertura ai democratici, quantomeno ad alcune ali più moderate dei democratici. Come ricordavi, tra i suoi consiglieri c'è un'ala che così naturalmente potrebbe essere così ideale per dialogare con i democratici. Rimane però da vedere se nel clima di polarizzazione estrema che si è creato nei primi 100 giorni questo dialogo potrà davvero maturare già adesso, oppure se invece bisognerà aspettare almeno ancora fino all'autunno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che, in momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, Trump riserva sempre grandissime sorprese. Abbiamo archivato i primi 100 giorni, abbiamo cercato di darvi oggi così uno scorcio di quelli che potrebbero essere i secondi 100 giorni, o comunque l'avvio della piena presidenza Trump, e però non è che sappiamo davvero molto. Dunque, mi sembra molto, molto appropriato come canzone del giorno un grande successo dei Beatles, Tomorrow Never Knows. Del domani non si sa nulla. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!